Buonasera. Dunque, un paio di informazioni di servizio. Allora, per quanto riguarda le lezioni, allora, la lezione della settimana scorsa è al solito is.gd, cos'era, 2011-12-09, corso avanzato. Nelle scorse settimane però, avendo anche sbagliato l'ultimo indirizzo, ho deciso di fare una paginetta che raccolga di volta in volta tutto quanto. E quindi, podcast, com'era che l'avevo nominata prima? Vanni, ti ricordi? Podcast? Aspetta. L'hai scritta? Allora, podcast, maiuscolo, un poco, un maiuscolo. Sì, sì. Corso avanzato, CA maiuscolo, 2012. Perfetto. Ok, in questo indirizzo qua, invece, poi magari lo mando anche in lista per quanto vi riguarda, sostanzialmente ho aggregato di settimana in settimana tutte le varie lezioni. Quindi, in settimana andrò a salvare sempre le lezioni con il primo dei formati. Comunque, se volete un qualcosa che riepiloghi tutte le varie lezioni, andate sul secondo indirizzo e lì sostanzialmente vedo tutto. Nel secondo indirizzo, tra l'altro, vado anche ad inserire le lezioni in formato Word che Vanni mi passa di settimana in settimana. Quindi per chi volesse, oltre alla parte, come dire, audio, anche un supporto scritto, molto gentilmente Vanni, più o meno tutte le settimane, mi manda la lezione. Quindi in formato Word ci sono anche le varie lezioni divise per giorno. Allora, io ne mangio un altro perché una studente, conoscendomi, sa che se c'è una cosa che adoro, non lo so, i cunesi, per una scala. Ma perché il cioccolato piace? Non mi piacciono tantissimo i dolci, ma il cioccolato lo adoro. Il cioccolato non è un'altra cosa. Storia. Però il cuneese proprio mi fa andare fuori. Allora. Sì. Basta. E prima di riempire me il bambino. Ve l'avevo detto, vero, all'inizio del corso che non si può mangiare in aula. Ma il cioccolato è un'altra cosa. Quello carburante. Basta. Allora, comunque il secondo indirizzo ve lo mando in questa settimana qua, in lista. E così ce l'avete. Allora, il 9 dicembre abbiamo visto a livello pratico Tutto ciò che ci eravamo raccontati sulle query semplici e parametriche nelle lezioni iniziali. Quindi sostanzialmente quello che siamo andati a vedere sono le opzioni utilizzabili con numeri e date, che lo ricordiamo, sono il maggiore, il minore, il diverso, l'uguale, il maggiore uguale e il minore uguale. Quindi queste sono tutte le opzioni che posso usare con date e numeri. Le opzioni che posso usare con il testo, che sono il like, testo, and asterisco, like, asterisco, and testo, like, asterisco, and testo, and asterisco. Quindi a seconda che io stia cercando un testo nella parte iniziale, finale o centrale, andrò a utilizzare una di quelle tre formulazioni. Il passaggio successivo è stato quello di dire: ok, ma se al posto di un testo, di un numero o di una data, io gli vado a inserire qualcosa, una domanda fra parentesi, che succede? E la risposta è stata una query parametrica. Piccola informazione di servizio, questa è l'ultima lezione dell'anno, perché l'Università Popolare chiude il 22, che è un giovedì, per cui il 23 non ci sarà lezione. E noi ci reincontriamo il 13 di gennaio. Quindi avete tutto il tempo per fare prove contro prove. Ok, questo è dove ci eravamo fermati la lezione scorsa. Allora, adesso volevo provare a fare insieme a voi. Sì, l'altra cosa che abbiamo fatto è l'AND e l'OR, quindi la concatenazione di più condizioni. Allora, adesso volevo provare una importazione di un file di Excel vi ricordate che l'avevamo vista qualche tempo addietro? Allora, mi è stato chiesto questa settimana lo faccio direttamente sul tuo, così mi è stato chiesto questa settimana di andare a aggiungere sostanzialmente una tabella di Excel con l'importazione, come vi avevo spiegato. Il problema è che importandola si sono trovate degli errori nell'importazione stessa. Questo lo vediamo perché è un caso pratico che potrebbe capitare a chiunque. Allora, sostanzialmente la tabella di Excel è fatta in questa maniera qua. Ecco, questa è questo. Allora, questa è una di quelle tabelle che già fanno venire voglia di utilizzare Excel. Vedete che di righine ce ne sono parecchie. 16.000 rotte. Va bene. Allora, proviamo a fare un'importazione nuda e cruda. Abbiamo detto dati esterni da Excel. Vado a recuperare la mia chiavetta. Gli do l'ok. E lui mi dice quale foglio vuoi prendere. Foglio 1, intestazioni, la prima riga, e già qua mi dà un primo segnale di errore. Ora, signori, bisogna iniziare a capire che cosa sono queste cose. Guardate che sono cose che vi possono capitare anche voi, quindi consiglio spassionato, due puntini su questo, ma li prenderei. Allora, durante l'importazione di un file Excel, uno degli errori che possono venire fuori è questo, cioè quando gli dite intestazione di colonna nella prima riga, lui potrebbe ribellarsi e dirci la prima riga contiene dati che non possono essere utilizzati come nomi di campo. Verranno assegnati automaticamente dei nomi di campo validi. Scrivetevelo questo, signori. Quindi stiamo riparlando dell'importazione di Excel in Access. Nel primo passaggio, quando gli dico mettimi come intestazione di campo la prima riga, Access potrebbe ribellarsi e dirmi guarda che la prima riga contiene dei dati che non possono essere utilizzati come nomi. Sì, sopra c'è scritto intestazione di colonna nella prima riga. Quindi vuol dire che, ricordate, noi quando facciamo un'importazione, ci avete provato a casa? Sì, allora, o un CSV o un Excel, cioè il concetto non cambiava. Solo che all'epoca chiaramente io feci l'esempio su una tabella fatta ad hoc, per cui era una tabella pulita, fatta bene, tutto il resto. Allora, cosa vuol dire che questo messaggio? Quindi che la prima riga contiene dei dati che non possono essere utilizzati come nomi di campo. Sostanzialmente vuol dire due cose. O che nella prima riga ci sono dei caratteri, chiamiamoli strani, caratteri strani, ora signori, mi rendo conto perfettamente che il termine strani in informatica ha poco significato. Bisognerebbe fare un preambolo parlando di codifica dei caratteri, codifica asci, UTF-8, Latin 1, eccetera, eccetera. Ma non voglio entrare troppo nel tecnicismo, diciamo semplicemente strani. Banalmente mi viene da pensare, dato che lì in mezzo avevo visto anche dei caratteri giapponesi, se ci sono dei caratteri giapponesi come intestazione di campo, il computer mi dice ciccia, questi non li voglio. Quindi scrivetevi strani tra virgolette e tra parentesi scrivetevi è un problema di codifica. Se fate delle importazioni come nel caso di questo file da un gestionale che lavora in un ambiente multinazionale, comunque su più nazioni, ci potrebbero essere dei caratteri. Penso, si lavora in Spagna anziché si lavora in Cina, anziché si lavora in Norvegia, dei caratteri con la diesi anziché con la tilde, anziché... Oppure, la prima riga ha delle celle vuote. Per cui lui, andando a vedere nella prima riga delle celle vuote, dice ma io non posso fare un'intestazione vuota, perché non avrebbe senso. Allora in questo caso, io gli do un ok, però incrocio le dita, non so bene quello che stia andando a fare. Se volessi fare le cose per benino, dovrei andarmi a vedere il file di Excel, leggermi tutte le righe e andare a vedere se ci sono dei caratteri strani o delle intestazioni vuote. Scusa, ma tu parli della prima riga, cioè significa l'intestazione? Prima riga, prima riga, prima riga. Prima riga, prima riga. Non dovrebbe, ma è così. Non dovrebbe, ma è così. Tanto è vero che se io gli do l'annulla, provo ad andare in Excel. Ok, non è così. Allora, magari potrebbe essere che tu hai fatto una cancellazione di qualche colonna. Allora io in questo caso ne seleziono un bel po', anche se sembrano vuote. Faccio un bel elimina, provo a salvare. E provo a rifare l'importazione da Excel. Ha importanza l'estensione? No. Fortuna che ho mangiato il liquore. Buonasera, informatica secondo corso. Grazie. Era sempre Tartuffi e Vini. Vabbè, continua a dare problemi, gli do l'ok. Dopodiché provo a fare una controllatina, se non vedo niente di strano. Ah, campo 11, guardalo qua. Evidentemente campo 11 non gli piaceva, c'era qualcosa che non gli andava bene. Poco male. E ci sito qua, cioè industry, campo 11, sales rep. Sì, sì, ma infatti, ma poco importa, signori, cioè lo vado a modificare dopo. È l'ultimo dei problemi. Dopodiché arrivo al secondo passaggio, ok, dove mi dice duplicati ammessi, e in questo caso il mio campo 11, adesso non so come si chiamasse, chiamiamolo un bel Pippo, e non se ne parla più, cioè è poco importante, ok? Ecco, a questo punto il problema che aveva il nostro radioascoltatore era quello che qua dentro, il nostro radioascoltatore sarebbe lui, e che lì dentro cosa succedeva? Che gli dava degli errori. Perché? Esatto, perché i caratteri che iniziavano come numerici, poco più in là, vabbè fidatevi perché non so in che posizione fossero, comunque iniziavano ad avere anche dei trattini in mezzo. Per cui Ace si inizia a leggere i primi caratteri, li vede numerici, dice ah, ok, questo è un campo numerico. Poi quando se li va a importare, inizia a dare errore, errore, errore, se vede dei trattini, perché vi ricordate che i caratteri numerici, cioè i campi numerici possono essere solo numerici. Allora, onde evitare questi errori, gli si va a dire tipo di dati, non precisione doppia, bensì Dov'è? Testo. Ora, non farmelo fare su tutti, hai capito il meccanismo, il giochino. Lo vai a fare anche su altri, se ti dà dei problemi su qualcun altro, gli vai a dire testo. Quindi, se avete degli errori in fase di importazione, basta che voi andiate a selezionare nel secondo passaggio il campo che vi dà problemi e gli dite testo. Beh, chiaramente sì, ma perché potrebbe esserci, poi lì non so come li ha tirati giù lui i file, ma siccome questo file arriva da un gestionale, la ridondanza ci può tranquillamente essere. Ma perché? Perché è frutto di una query. E vi ricordate che quando abbiamo fatto la query abbiamo visto che la query la ridondanza la dà, perché va ad acchiappare i dati da più tabelle. Quindi a monte il gestionale è fatto bene. La query dà della ridondanza, lui dovrà chiaramente andare a gestire questa ridondanza. Però essendo il frutto di tabelle ben collegate, è una ridondanza ben accettabile. Esatto, esatto. Ok? Ora, andando avanti, avanti, avanti, se ci fossero ancora dei problemi di importazione, uno si va a vedere dove sono e cerca di capire. D'accordo? Ecco, vedete che poi lui, quando ci sono, vi dà degli errori di importazione, uno ci va dentro, lui vi dice in quale riga ha trovato l'errore di importazione, per cui voi andate nel file di Excel, alla riga 88, alla riga 1419, alla riga 14526 e vi andate a vedere dove sta il problema. Ok? Comunque sappiate che quando ci sono questi problemi, i problemi sono perché il campo è impostato come, tipicamente come o data o numero, ma in realtà lì in mezzo c'è qualcosa che non è una data o un numero. Ok? Ah no, l'ha fatta lui. Cioè quando gli ha dato l'ok, lui mi ha creato la tabella 1 e mi ha creato la tabella 1 errore di importazione. In 1 errore di importazione mi dice guarda che hai un errore di importazione qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Ma il passaggio prima... Il passaggio prima è Excel, acchiappo la tabella, pin perpetua nusa, nusa la patata, nusa il pomodoro, pin perpetua e pan. Chiaramente questa è una tabella piuttosto corposa, per cui ci metterà un pochino. Che cosa che sta andando a fare in questa fase? Sta andando ad analizzare sostanzialmente i vari problemi. Allora, gli do l'ok, vado avanti, nel passaggio successivo sempre che mi ci faccia arrivare, ecco, gli vado a dire qua tipo di dati, testo, e a questo punto per esempio vado alla riga 88 e vedo che cosa c'è nella riga 88, solo che qua mi dà soltanto alcune, mi dà le prime, boh, devo andarmelo a vedere nel file di Excel, ok? Vado avanti, d'accordo? Qua devo scegliere la chiave primaria, se so che c'è della ridondanza non vado a scegliere number, se invece so che non c'è della ridondanza gli vado a dire chiave primaria number, lì a seconda di se c'è o non c'è ridondanza. Supponiamo di sapere che la ridondanza ci sia, gli metto una chiave primaria contatore, vado avanti, gli dico il nome della tabella, Pippo, e schiaccio fine. Tutto qua. D'accordo? Schiacciando fine, lui mi dà la tabella Pippo e mi dà errori di importazione. Tutto lì. Quindi, signori, a quel punto lì, sostanzialmente, voi riaprite il file di Excel, andate nelle righe che lui vi evidenzia e vi andate a modificare quello che secondo lui, secondo voi è sbagliato. Se non c'è niente di sbagliato, quando gli errori sono pochi come in quel caso, ve li andate a reinserire voi a mano. D'accordo? Perfetto. Allora, cosa ci raccontiamo stasera? Prendiamo questo esempietto. Quelli di calcolo, proprio così secchi. No, facciamo una lezione più tranquilla. La scorsa settimana abbiamo fatto quelli semplici, quelli parametrici, end, or, destra, sinistra. Allora, questa sera vi faccio una cosa un po' accattivante, dai, per farvi venire un po' di acquolina in bocca. Poi sulle query di calcolo ci ritroviamo il 13 di gennaio. Allora, questa sera volevo farvi vedere nelle maschere i menu a tendina. I menu a tendina all'interno delle maschere. E così vi faccio anche una query di creazione tabella. Query di creazione tabella. E così vi faccio anche la clausola distinct che l'anno scorso non abbiamo visto. Distinct. Distinct. Non lo so che l'abbiamo vista. Allora, parliamo del problema, questo, lo posso mandare poi a tutti? No? No? Ok. Allora, questo qua è un bel elenco di film posseduti da un conoscente. Allora, questo conoscente aveva il problema giustamente di dire: come faccio per andare a inserire il genere? Allora, il genere sostanzialmente nella struttura della tabella, alla voce genere, qua lui giustamente ha messo avventura, azione, cartone animato, comico, commedia, ok? Di modo che quando è nella tabella, va in genere, si trova questo elenco qua. Per tutti chiaro? Sì. Vanni? Qual è il problema di fare questo giochino qua? Il problema fondamentale è che l'elenco dei generi è nella struttura della tabella. Per cui se un domani i generi sono uno in più, devo andarmi a mastruzzare la struttura della tabella. Che finché il database è un database casalingo, ci può ancora ragionevolmente stare. Ma se il database diventa qualcosa di più articolato, e soprattutto questi generi aumentano con i giorni, chiaramente capite bene che non posso andarmi a a dire all'utente: ah, guarda, se c'è un genere in più non ti preoccupare, entra nella struttura della tabella, vai al campo genere, ricerca, aggiungi il genere, però fai attenzione, devi mettere punto e virgola tra virgolette il genere, chiudi, salvi, ritorni sulla maschera, riapri e vedrai che ce l'hai. Perché quello gli spara una fucilata. Allora, sostanzialmente, quello che dovete fare è la seguente cosa. Vi create una bella tabellina, che sono quelle che io chiamo tabelle di raccordo, con i generi, di solito io le tabelle di raccordo, ma è una convenzione che ho proposto anche l'anno scorso, io le chiamo sempre con uno 0 underscore e poi il nome. Ricordate che vi dicevo, i nomi delle tabelle vanno sempre al plurale. Le tabelle di raccordo le chiamo zero underscore. Cioè so che sono delle tabelle che in realtà non hanno niente a che fare con il database. Semplicemente mi servono per il menu a tendina. E quindi le zero underscore hanno sempre e solo un campo che è chiave primaria. Boh. Quindi in tutti i database fatti da me, o da studenti che hanno seguito i miei corsi, quando vedete una 0 underscore, sapete che quella è una tabella di raccordo con un campo chiave primaria e che viene usata esclusivamente nei menu a tendina. Una volta fatto il menu a tendina, nella vostra maschera, alla voce generi, ci facciamo, una volta fatto la tabella di raccordo, nella voce maschera, alla voce generi, un menu a tendina dove le voci vengono pescate da questa tabella. Vi piace? È chiaro per tutti dove voglio arrivare? Benissimo. Allora, stasera facciamo questo. Ma siccome non ci vogliamo fermare a questa banalità... Dai, Vanni. Il problema è che io sinceramente non c'ho voglia di mettermi lì a scrivere drammatico, fantascienza, fumetto, guerra, horror, perché è troppa fatica. Siamo d'accordo tutti? E allora che mi devo fare? Questo lo posso cancellare? Come si fa a passare da una tabella già compilata che è questo caso, ad una tabella di raccordo? Come devo fare? Come faccio da una query già compilata a crearmi una query di raccordo e una tabella di raccordo? Io ho questa query qua, ho questa tabella qua, voglio crearmi una tabella di raccordo che contenga i generi. Andiamo per gradi. Creo una query che si basa sulla tabella compilata, una query, di che tipo? Semplice, semplicissimo. Quali campi gli andrò a inserire in questa query semplice? Soltanto il campo genere, quindi soltanto il campo che sarà la chiave primaria nella tabella di raccordo. Quindi con un solo campo che sarà la chiave primaria della tabella di raccordo. E la prima cosa da fare è questo. Che parametri gli metto in questa query semplice? Volendo l'ordinamento, ci può stare. Ma non è indispensabile in realtà, perché poi vedremo dopo che lo possiamo mettere nel menu a tendina. Perché in realtà l'utente deve essere libero di poter inserire i generi come gli vengono in mente. Però, eventualmente ci può stare l'ordinamento. Ma devo fare qualche filtro? No, giusto. Senza nessun tipo di filtro. Perché in realtà i generi li voglio tutti, non è che voglio solo guerra, solo senza... filtro. E allora, quindi il primo passaggio quella l'avevi fatta. La prima. Il primo passaggio è quello di acchiappare elenco film, prendere genere e fatta la mia querina. Ma c'è un piccolo problemino. E quando io avvio, lui giustamente mi va a prendere film per film e mi dice avventura, horror, avventura, avventura, horror, guerra, guerra, guerra, avventura, avventura, avventura. E non è che io posso andarmi a fare una tabella generi dove fantascienza, avventura e horror ci sono 30 volte uno, 40 volte l'altro e 25 il terzo. Siete d'accordo? E allora, quindi scrivetemelo. Facendo così, ciascun genere, perché in questo caso stiamo parlando di generi, ciascun genere può apparire, anzi, apparirà molteplici volte. E quindi ciascun genere apparirà molteplici volte e quindi non può diventare una chiave primaria. E allora dove c'è il pulsante a forma di squadretta, clicco sulla frecciolina in basso alla squadretta. Quindi due, clic non proprio sulla squadretta. C'è anche sul robot, eh? Sì, sì. Abbiate pazienza, ma io non so veramente disegnare. E non sulla squadretta, ma sulla frecciolina. Quella sotto. Quella sotto. D'accordo? Yes. Puoi dirmi no, eh? Cioè, non la vedi? C'è proprio sotto. Sulla freccia, cioè, non sulla squadretta. Ma sulla freccetta. Viene fuori un piccolo menu a tendina. Andate alla voce SQL. SQL. Allora, clic SQL. Allora, apriamo una piccola parentesi sull'SQL. SQL è il linguaggio che viene usato dai sistemi di database. È un linguaggio universale. In realtà ha qualche dialetto, ma non sottolizziamo. Ma è il linguaggio universale di tutti i database. Ora, signori, ricordatevi di questo SQL, perché quando inizieremo poi a fare gli esercizi, io vi darò le tabelle e vi dirò fai una query che fa così, fai una query che fa cos'ha. Ora, non è che voi, se mi volete chiedere ma non sono riuscito a farlo altro, cioè non è che mi dovete descrivere tutti i passaggini che avete fatto. mi fate un copia e incolla della query SQL e abbiamo finito di parlarci. Vi faccio vedere che cosa voglio dire. Se voi fate una query come questa, dove mettete il titolo, il sottogenere, il regista, prendete il genere fantascienza, non state a scriverlo, il titolo, like, sicuramente ci sarà qualcosa che inizia con la A, end asterisco, d'accordo? Non è che mi dovete dire, ho messo la tabella elenco film, poi ho scritto fantascienza, poi ho scritto like, no, mi prendete la stringa SQL, fate un bel copia e mi mandate la stringa SQL via posta elettronica. Cioè, quello che io voglio che mi mandiate è questo. Perché? Perché io sul mio computer vado su crea query, prendo l'SQL, faccio incolla e quando ritorno sulla struttura lui me l'ha già fatta. È chiaro? Chi era come l'anno scorso l'ha già visto. Chi è quest'anno con me lo vede adesso. Questo è un propedeutico poi quando inizieremo a fare gli esercizi. Cioè non è che mi dovete dire ho preso la tabella Pippo, la tabella Pluto, poi ho messo questo campo, ma quest'altro l'ho preso di là, poi ho fatto like, poi li ho messi su due righe diverse, non ne veniamo più fuori. Andate sull'SQL, copia, scrivete una mail, incolla. Quando mi arriva io faccio copia dell'SQL, lo metto sulla query e vedo che cosa avete. Quindi scrivetevelo a caratteri cubitali, che l'SQL è il linguaggio universale, basta fare copia e incolla di un'istruzione SQL e si riproduce tale quale. Bene, dopo questo effettino speciale ritorniamo a noi. Allora, perché vi ho fatto fare le SQL? Perché l'istruzione che vi sto per mettere adesso la posso fare solo dalle SQL. Cioè, esiste una clausola, adesso non voglio entrare nelle SQL perché non ci interessa, però quando voi aprite una istruzione SQL di una query di selezione, avete un select e poi uno o più campi. Poi avete anche altro, il from, ma non ci interessa. Quello che ci interessa è che avremo sempre un select e uno o più campi. Ora voi tra select e i campi, qua in mezzo, dovete andare a scrivere di stin distinct. Fai stesso. La clausola distinct sostanzialmente prende tutti i record, ma che siano che non si grazie. Che non si ripetono. Che non si ripetono. Quindi, se io lancio la mia query, vedete che le varie voci si ripetono? Se io gli vado ad aggiungere la clausola distinct, d'accordo? Vedete che è tra il select e quello che c'è dopo. ciascuna voce non si ripete più. Li prende una sola volta. E questo l'anno scorso non l'avevamo visto. Ok? Oh, signori, va da sé che se io qua gli avessi messo ad esempio il titolo che di per sé è una chiave primaria, il distinct è completamente inutile. Quindi che io lo metta o non lo metta, in realtà non fa nessun tipo di differenza, perché lui prende l'intero record, deve essere unico. Ma siccome c'è il titolo che è unico da un record all'altro, metterlo o non metterlo, la clausola distinct è del tutto indifferente. Esatto. È chiaro? Perfetto. Quindi abbiamo detto, punto 1, faccio una query semplice con un solo campo, che sarà la chiave primaria della tabella di raccordo senza filtro. Punto 2, clicco sulla freccina sotto la squadretta e poi su SQL e aggiungo la clausola distinct. Punto 3, ritorno sulla struttura della query, dove sono adesso, e clicco su query di creazione tabella. La query di creazione tabella è una di quelle query di comando che abbiamo visto all'inizio del corso. Nell'Office più vecchio 8 c'è un pulsantone dove c'è scritto tipo query, qualcosa del genere, e me la vado a scegliere da lì. Nell'Office nuovo le tipologie di query sono qua. Vedete che qua c'è scritto tipo query. E ci sono tutti questi bei pulsantini colorati. Ci passate sopra il mouse e quando vedete query di eliminazione, query di accodamento, query di aggiornamento, query di creazione tabella. Quindi cliccate sull'iconetta che ha una tabellina, un bel asterisco. Sì, il simbolo è uguale, solo che c'è un pulsante tipo query. Bravissimo. E viene fuori la finestrella con le varie tipologie di query. Qua invece sono visibili subito. Quindi cliccate su quel pulsante lì. Lui vi dice, ok, guarda che stai per creare una tabella, dimmi il nome della tabella. Come abbiamo detto che la chiamiamo? Zero underscore generi. Ricordatevi di queste convenzioni, signori, perché vi saranno poi utili. Perché quando voi vedrete una zero underscore, sapete che quella lì non vi influisce nella logica del database. Vi serve solo per il menu a tendina. E schiacciate OK. Se volete la potete anche salvare. Salvandola, vedete come l'icona sia differente da quelle precedenti e abbia in particolare un punto esclamativo. Il punto esclamativo vuol dire che quelle sono delle query di comando, non state a scriverlo, tanto lo vedremo fino alla nausea poi il prossimo anno. Le query di comando hanno il punto esclamativo perché vi dicono, occhio, che quello che stai andando a fare è irreversibile. Tanto è vero che quando voi lanciate una query di selezione, vabbè qua non c'è niente, tabella 1, Vabbè, insomma, tanto l'avete visto. Se lanciamo una query di selezione, lui non è che mi chieda conferma. Se io invece lancio una query di comando, lui mi dice... Niente. Mi dice, attenzione, guarda che la tua query sta per fare qualcosa. Sei sicuro? Sì. D'accordo? Sì. Se io dico sì, lui mi dice i numeri che verranno incollate nella nuova tabella 22, gli dico ok, e lui mi crea la tabella 0 generi, che è fatta in questa maniera. D'accordo? Quindi 4, creo la tabella 0 underscore generi, 5, vado nella struttura di 0 underscore generi, ed imposto la chiave primaria. Guardate, signori, che questo passaggio qua è fondamentale. Ma che dico fondamentale? Fondamentalissimo. Perché se voi non le impostate quell'unico campo come chiave primaria, rischiate poi in un futuro di scrivere due volte lo stesso genere. Sì, sì, sì. Cioè, io posso anche non dargliela, però è un, prima o poi quello diventa un boomerang. Quindi uno si toglie il pensiero, entra qua dentro, gli dice guarda che questa è la chiave primaria, lui non si ribella particolarmente perché aveva usato la clausola distinct, e siamo amici come prima, la mia tabella generi continua ad avere 22 campi. Ma a quel punto, se io gli provo a scrivere qua sotto nuovamente azione, lui mi dice, non se ne parla neanche. Esatto. Se adesso non abbiamo utilizzato un qualcosa che ci da zero, se fossimo partiti da zero, chiaramente, giusto, creavamo una tabella con un unico campo chiave primaria e andavamo a inserire i dati. Sì, e sostanzialmente anche per dirvi qualcosa in più. Perché in questa maniera, in maniera occulta, vi ho iniziato al concetto di query di comando. D'accordo? Che poi sviscereremo la prossimo anno. Allora, tutto bello. A questo punto andiamoci a fare una bella mascherina. Sulla mascherina non ci sono grosse cose da dire, perché le abbiamo già viste. Quindi facciamo una bella creazione guidata delle maschere, fin struttura, ci buttiamo di là tutto, avanti, avanti, scegliamo qualcosa che ci aggradi, un nome e diamo l'ok. Tutti d'accordo, no, fin qua? Che schifo. Va bene. Ora rimane, la rifaccio, mi fa schifo. L'hai fatta? Ok. Ok, allora, una volta fatta la maschera, chiaramente anche qua potete andare nella struttura e modificare. Un consiglio che vi do, provate a giocare un attimino con le strutture delle maschere, perché ci saranno poi utili quando faremo i vari esercizi. D'accordo? Provate ad allargare... ho visto. No, ma ho capito più a sinistra, però il problema è che voglio tirare su questo. Mi sto arrabbiando. Sì, il 2007 è più ostico in queste cose. È vero, è vero. Poi quando le cose non le hai fatte te... Oh. Ok. A questo punto il genere lo cancello se c'era già. Quindi, passaggio successivo, una volta fatto tutto questo, creo la mia maschera. Creo la maschera. 2. Cancello, entro in struttura, La struttura me la posso modificare. Iniziate a giocarci con la struttura delle maschere, perché poi sembra una banalità, ma una maschera fatta bene o male fa la differenza a livello proprio di visualizzazione. Poi il prossimo anno vedremo anche come fare i pulsanti, come fare questa roba qua. 3. Cancello genere. Perché? Perché in quel caso lui aveva un menu a tendina che gli andava a pescare dalla tabella, dalla struttura della tabella. Se voi non mettete i dati nella struttura della tabella, vi viene una semplice casella di testo. Ok? 4. Inserisco il pull down, il menu a tendina. Il menu a tendina in inglese si chiamano pull down. Sì. Comunque, il menu a tendina. Come si fa? Piuttosto semplice. Allora, prima di tutto dovete assicurarvi che ci sia la bacchettina magica abilitata. Quindi nel menu dovete andare a verificare che questo pulsantino qua, che è tipo la bacchettina magica, sia abilitata. A cosa serve quella bacchettina magica? A crearvi una composizione guidata. Quindi vi facilita di gran lunga le operazioni. Perché sennò dovete andare nelle opzioni, contro opzioni e diventa più... Ora, se non l'avete mai disabilitata, quella è abilitata da sé, quindi basta farlo la prima volta. Però comunque uno la prima volta gli dà un'occhiata. Dopodiché va a schiacciare sul pulsante del pull down, che è questo qua. Casella combinata. No, non a B. Questo. Oh, signori, è quello che è la forma di una casellina combinata, no? La cercate un secondo, è quella fatta in questa maniera. Quindi schiacciate su quel pulsante e poi nel punto in cui volete il pull down. Cosa si è persa? schiaccio, a questo punto dovrebbe dirmi ok. Dovrebbe essere? Da nessuna parte, sono ancora lo schiaccio. Ah, ok. Schiaccio, ok. Ok. Vado dove lo voglio mettere. Ok, va bene. E schiaccio dove lo voglio mettere. Schiacciandolo dove lo voglio mettere, lui mi fa apparire una creazione guidata. D'accordo? Quindi scrivetelo. Quindi schiaccio sul pulsante, clicco dove voglio infilarlo, dove voglio infilare il pull down, e parte una composizione guidata. Oh, signori, qua dovete semplicemente leggere con attenzione quello che vi viene chiesto. Allora, nel primo passaggino lui vi dice: questa procedura guidata consente di creare una casella combinata, che fa anche rima, con l'elenco dei valori che è possibile selezionare. Indicare la modalità che dovrà essere utilizzata da parte della casella combinata per caricare i valori. Oh, stringi stringi vi chiede, da dove li pesco i dati? Vi dà tre opzioni: ricerca i valori in una tabella o query precisa, immissione personalizzata. Ma immersione personalizzata, ritorno nel problema di prima, che la volta in cui devo aggiungere o togliere un valore me ne devo andare a modificare a mano. Allora gli dico: ricerca i valori in una tabella. Quindi gli dico: ricerca i valori in una tabella, che poi è l'opzione con la quale lui viene di default, e vado avanti. Il secondo passaggio vi dice: in quale tabella o query si trovano i valori per la casella combinata? E beh, già che io l'ho appena fatta, gli devo andare a pescare i valori dalla tabella zero generi. Tutto chiaro? Quindi clicco sulla tabella zero generi, a meno che come in questo caso non ci sia già, e vado avanti. Vabbè, questo qua non ha particolarmente bisogno di essere spiegato. Vi chiede quale campo di quella tabella devo acchiappare. Ma se qua abbiamo fatto le cose per benino, un campo solo c'è ed è una chiave primaria. Quindi lo butto a destra e vado avanti. Ecco che nel passaggio successivo vi dice: vuoi mettere qualcosa in ordine alfabetico? Per quello che non era necessario prima nella query, si può fare, ma non è necessario perché lo posso fare qua. Quindi eventualmente qua potete decidere di mettere i generi per ordine alfabetico. Vado avanti, ve li fa vedere, vado avanti, ok? Quindi fino a qua niente di trascendentale, siete d'accordo? Ecco, solo tanta attenzione all'ultimo passaggio. Perché nell'ultimo passaggio vi chiede dove, leggiamo lì, il valore selezionato nella casella combinato può essere memorizzato nel database o utilizzato in un secondo tempo per eseguire un'operazione. Indicare l'operazione che si desidera eseguire. Devo dire che non ho capito nemmeno io cosa voglia dire, ma non importa. Comunque, nell'ultimo dei passaggi mi chiede: dove lo vuoi andare a salvare sto dato? Quindi nell'ultimo dei passaggi gli dovete andare a dire: memorizza il valore in questo campo. E nel menu a fianco gli dovete specificare in quale campo volete andare a memorizzare ciò che scegliete dal menu a tendina. Quindi Avete visto, signori, che la creazione guidata di prima, cioè veramente clic, clic, clic, clic, clic, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Tanta attenzione soltanto all'ultimo dei passaggi, cioè dove dovete dirgli, ok, io scelgo qualcosa dal mio tendina, dove lo vado a ficcare sto qualcosa? Nel campo corretto. In questo campo, in questo caso, nel campo genere. D'accordo? Sì, qua sì. Vado avanti, gli devo dire un nome alla casella combinata, dato che stiamo parlando di generi, vado a scrivere genere e schiaccio fine. Però ripeto, signori, avete visto che è molto semplice il passaggio, ok? Cioè la parte difficile, ma neanche difficile, è quella di crearsi la tabella e poi faccio avanti, avanti, avanti e schiaccio fine. E voilà, ecco il mio bel pull down. Ok? Quando andrò a visualizzare la mia bella tabellina, all'interno della maschera, vedete che lui mi dice documentario storia e nel menu a tendina mi dà tutti i generi possibili e immaginabili. D'accordo? Posso eventualmente cambiarlo. Se un domani avessi un genere in più, lo vado ad aggiungere qua dentro, Vittorio, e quando riaprirò la mia maschera, mi troverò anche il genere Vittorio. D'accordo? Chiaro per tutti, signori? La tabella di generi, sì. Non posso. No, ve ne mando un'altra simile, non, poco importa. Allora, signori, ci siamo quindi su questo discorso qua. Allora, cos'è che io vorrei che voi faceste in queste vacanze? Allora, in queste vacanze... Potremmo anche festeggiare. Sì. Tra un panettone, un pandoro... È un cioccolatino a rum. Vanni, per favore, ricordami di mandare l'esercizio. Allora, come esercizio, io vi manderò una tabella. In questa tabella non ci saranno tanti campi, ma ci saranno tanti record. Vi scriverò poi in questo esercizio di fare la stessa cosa che abbiamo fatto questa sera, cioè prendere uno di quei campi, fare una tabella di raccordo tramite una query di creazione tabella con la clausola distinct e di fare poi un menu a tendina, cioè né più né meno quello che abbiamo fatto questa sera. Dopodiché, all'interno dello stesso esercizio vi andrò a chiedere delle altre cose, in particolare le altre cose quali saranno? Vi andrò a chiedere di crearmi una serie di query. Query semplici e query parametriche. Ora signori, fatto questo, sostanzialmente abbiamo tutti i mattoncini per poter iniziare a fare dal prossimo anno degli esercizi pratici. Ci mancano ancora le query di calcolo e i join, destra, sinistra, left join, right join, math join. Però diciamo così, i tasselli per iniziare a costruire qualcosa di più serio e interessante iniziano più o meno ad esserci tutti. Poi è chiaro, col tempo arrivano i problemi. Ad esempio, sono contentissimo della domanda che mi ha fatto stasera Alfonso, perché, Alfonso, giusto? Perché questa sera mi dice, ah, ok, ma io ho due date, ho una paga oraria, come faccio a calcolare quanto devo pagare una persona anziché qualcuno? E non gli veniva chiaramente, cioè non gli veniva perché magari non gli è venuto in mente di fare la differenza delle due date non col meno ma con una funzione. Quindi i dubbi poi verranno negli anni, verranno col tempo e tutto il resto, però possiamo già iniziare a rimpostare qualche problema. Quindi in queste vacanze di Natale vi manderò questo file di Excel che vi chiederò di importare. Una volta che l'avete importato vi dirò quale dei campi dovete mettere come tabella di raccordo e poi vi dirò di fare alcune query. Ok? Allora, per rimanere tutti amici, quando io vi chiedo di chiamare una query in un modo o in una tabella di un modo, voi dovete chiamarla esattamente in quel modo, esattamente in quell'altro modo. Perché? Perché le istruzioni SQL, poi, come vi ho fatto vedere prima, che tagliamo e copiamo, eccetera, eccetera, funzionano a patto che una tabella, come la chiamo io, l'avete chiamata anche voi. Perché se no, ciccia. Quindi se io vi dico, salvate la query come Pippo è andato a mangiare il panettone, la dovete chiamare Pippo è andato a mangiare il panettone. Perché se poi io faccio una query su quella query, non funziona più l'SQL. E allora non ci capiamo, allora, ah, ma io l'ho chiamata così, ah, ma io l'ho chiamata così, eccetera, eccetera. D'accordo, signori? Con questo io vi auguro buon Natale. Mangiate tanti panettoni. Pochi, vai. E ci vediamo allora il 13 gennaio, stesso luogo, e stesso ardore.